Ciao a tutti, benvenuti su Tutto Tranquillo. Ciao Francesca, come Ciao stai? Ciao Giacomo, bene. È da un tu? Po' che non ci vediamo, tra l'altro. Guarda che non ci vediamo e anche un po' che non parliamo così alla radio. Sì, anche perché l'ultima l'avevamo fatta con la playlist, avevamo mandato, quindi esatto, non ci siamo parlati esatto. Un po', sì. E quella di oggi è una puntata un po' speciale perché è la prima puntata di Tutto Tranquillo dove con noi ci sarà un ospite, quindi non saremo in due ma saremo in tre, ed è la puntata che insomma aprirà quella che sarà l'inizio della rassegna atmosferica che partirà da domani sempre a Exalge. Se fosse Natale sarebbe la vigilia. Esatto, oggi nella esatto. Vigilia della nostra rassegna. Esattamente. Che emozione. e quindi niente, abbiamo appunto con noi il primo artista che aprirà la rassegna ed è Vito Gatto. Ciao, ciao a tutti. Ciao Vito. Eccomi qua. Ciao, benvenuto. Benvenuto innanzitutto. La terza voce. La terza, forse la prima voce, chi lo sa. O la voce solista. Essendo il primo, la prima. Come stai intanto? Bene, bene. Okay. Grazie intanto per l'invito, soprattutto per domani, perché sono molto contento di aprire questa carrellata di bravissimi artisti ed artiste, e insomma è anche un po' che non suono questo set, quindi è anche insomma sono abbastanza emozionato, devo dire, non vedo l'ora. Io super curioso di vedere anche questo noi, set nuovo di Vito, che infatti, come dicevamo prima, è il primo, è un onore averlo per primo, perché comunque Vito è un signor musicista, il dottor musicista, uno dei dottori della musica. Esatto, tutto tranquillo, restiamo tranquilli. Proviamoci. E che poi ci facciamo prendere dall'entusiasmo e cominciamo a pompare pesantemente qualsiasi roba. Manteniamo basse le aspettative. Sicuramente no, altissime, ma è sold out, mi raccomando. Sicuramente c'è da dire che sei un musicista con un bel bagaglio culturale alle spalle, di studi e vita in generale rivolta e legata al suono, che insomma hai un percorso, conoscendoti anche, abbastanza di rilievo, nel senso. Di curiosità, più che altro. Esatto. Il mio motto degli ultimi mesi è confusi e curiosi. penso che sia un bellissimo motto. Particolarmente per descrivere un po' tutto un il... Un po' la Carmen Consoli. Vedi, ecco. Semi-cheat. Esatto. Ma ci vuoi raccontare un po' di te, della tua musica? Ma sì, più che della musica, in realtà sarebbe appropriato, per quanto riguarda, insomma, per anticipare un po' quello che porterò domani, più che della musica un po' il percorso di ricerca quasi personale di vita, cioè di ricerca di un posto dove star bene, sostanzialmente, dove far ripartire sempre tutto quando si incontrano delle normalissime poi difficoltà che abbiamo sostanzialmente un po' tutti, quando ci si sente incastrati in determinate situazioni che sembra che non abbiano una via d'uscita, che riguarda un po' la società in generale, cioè l'essere umano che vaga alla ricerca di non si sa bene cosa finché non smette di chiederselo e quindi dà per scontato di star lì e galleggiare fino alla fine dei suoi giorni. Io ho dato un po' una botta a questa cosa, appunto, dopo aver fatto sì un bel percorso musicale, sia di studio che di esperienze, di concerti, di tour, di lezioni e bla bla bla. Ho detto proviamo a farci 2 o 3 mesi in Valcamonica. Sono andato ad esplorare un esperimento. Ho fatto questo esperimento che doveva durare 3 mesi, poi è durato 1 anno e poi sono quasi 2 anni che sono lì. E si è riavviato un po' tutto quanto, diciamo, il processo creativo, se vogliamo anche un modo di vivere effettivamente il processo creativo in una maniera molto più naturale. In una maniera molto più naturale, che credo che derivi anche dal fatto di stare in un luogo più affine al vivere naturale, cioè trovarsi a 10 minuti da un bosco e poter fare una camminata senza senza il senso di colpa di dire oggi non riesco a fare qualcosa, ad essere produttivo, a lavorare. Cosa c'è nel non essere produttivo, nell'andarsene via, sciacquare un po' la testa e tornare indietro qualche ora dopo con i pensieri un attimino più limpidi? Sì, si dice un po', si parla un po' della questione di dover rallentare i tempi, però obiettivamente siamo alla fine dentro dei tempi che sono, non sono normali, nel Forse senso. sono i tempi normali ad essere accelerati, cioè quelli che parliamo di tempi vanno rallentati e che proprio non hanno loro la velocità No, nel senso il tempo adeguata. rallentato probabilmente in realtà è il tempo Il tempo giusto, il umano, tempo umano, e esatto. invece siamo abituati poi a vivere un tempo che non è Stiamo obiettivamente forse un umano. po' dando per scontato che quella sia, sì, la strada La giusta, la realtà. velocità giusta con cui effettivamente vivere o il più delle volte sopravvivere in qualche maniera, no? Beh, tu hai fatto una bella scelta di coraggio quella di andare in Val Camonica, perché allora io sono molto legato alla montagna, mi piace, la vivo da quando ero bambino e il racconto che tu hai fatto adesso inizialmente sembra una poesia, alla fine vera e propria, quanto è bello uscire, avere il bosco, camminare, ma non hai ancora tirato fuori quanto è difficile, nel senso. Questa scelta di rallentamento che hai avuto è stata una scelta sicuramente importante e vera, ma penso anche difficile da realizzare, perché comunque la montagna, la solitudine, ma proprio anche la montagna con l'imponenza che ha, ti schiaccia spesse volte contro delle realtà interne tue. Prima parlavi di luoghi, infatti la mia domanda che volevo riportare prima era capire se erano luoghi esteriori, paesaggi o luoghi interiori dove riuscire a ritrovare. E quando poi appunto hai tirato fuori l'argomento montagna, mi si è illuminato molto di più il discorso del riuscire a riappacificarsi con se stessi, nel trovare quel luogo di pace interno, che spesso penso che forse solo la montagna sia in grado di fare con quella violenza, perché il mare a volte il rumore, ti coccola. La montagna con i suoi silenzi spesso assordanti ti schiaccia in un modo o nell'altro. E quindi tanto di cappello, cioè sembrava tanto una poesia inizialmente, ma adesso poi vorrei sentire anche Sai, quella parte mi fa difficile. sorridere partendo dal presupposto della differenza mare-montagna. Parlavo con un carissimo amico di Genova di quanto si faccia confusione riguardo alla spiaggia e al mare. Nel senso che stare nel bel mezzo del mare probabilmente si porta a delle riflessioni differenti, ma a un'ostilità, cioè no, gli esseri umani Indubbiamente. non sono fatti per stare in No, mare, quindi è è molto un'altra. affascinante ugualmente, ho avuto modo di esplorare questa cosa, insomma, facendo degli studi a riguardo durante Sì, l'anno perché tra l'altro tu scorso, parlavi adesso di mare e montagna, ma durante e tu l'anno sei proprio scorso. mare Sono maremonti, e sì, no, ho studiato per fare la guida Whale Watcher lo scorso anno, nel primo anno in cui ero in montagna. A proposito di confusi e curiosi, tra l'altro, Esatto, e infatti hai scelto il perché. posto migliore dove andare a cercare le barriere. Sì, esattamente. Esattamente. No, allora, la montagna, hai fatto una domanda, una riflessione interessantissima, nel senso che è proprio tirando fuori dal. Devo cercare modo di dirlo in maniera sintetica, ma Sì, ci la vorrebbero 4 ore. pace, esatto, la pace interiore è la ricerca di questa pace interiore. Se uno non ha qualcosa che la esternalizza, non so come dire, e la rende più piccola, la rende più semplice, rischia di essere assolutamente controproducente, cioè rischia di arricciarsi su se stessa. Quello che a me personalmente, perché cioè, da premettere, io sto facendo un ragionamento e sto facendo un racconto di una strada personale. Ognuno poi ha Ha la la sua. propria Ognuno ha la sua. sensazione, non si tratta né di dire guardate che ho capito, non ho capito niente, ok? Cioè, sia chiaro che non ho Hai capito niente, seguito ma un tuo bisogno, un ho seguito un istinto, esatto. istinto, ho seguito un richiamo più che un istinto, ho seguito un fortissimo richiamo che tuttora sta continuando e man mano che si normalizza presenta effettivamente le sue difficoltà. Cioè, la solitudine durante il primo anno non esisteva No, ma perché immagino, certo, la novità c'era la forse novità, c'era la anche. scoperta Sì, di anche. che cosa. qual è la sensazione effettivamente, anche semplicemente solo guardare fuori da una finestra alla cima di una montagna dove non sono sicuramente ancora in grado di arrivare, quindi con tutte le dovute precauzioni del caso, prima o poi ci arriverò, ma ben lontano da essere Messner, anzi, però ripulisce in qualche maniera anche tutta una serie di pensieri che sembrano così tanto importanti. Quando in realtà a ridimensionarli di fronte a tanta immensità diventano quello che sono, cioè si diventa tutto molto più limpido con uno sguardo nel silenzio, sostanzialmente. Questo durante il primo anno. Nel E il secondo, secondo? adesso sto effettivamente cominciando ad affrontare, oltre che delle questioni pratiche nel senso voglio stare qui, sì, mi piace, mi fa molto bene, penso che potrebbe farlo anche ad altre persone, quindi il progetto alla lunga sarebbe quello di mettere nelle condizioni altri che siano figure artistiche, ma anche persone che hanno bisogno di uno stacco e non trovano una Un strada, un rifugio. rifugio, esatto, cioè di dare la possibilità di ospitare sia per creare che Che per per spegnere il stare. telefono che per stare, quindi per poter mettere in piedi questo tipo di progetto, luogo pratico dove stare effettivamente è molto importante. Quindi ora sto capendo di essere un po' troppo defilato rispetto a quello che sono le logistiche per poterci arrivare, che la valle ha tante costole altrettanto interessanti da esplorare, ci potresti stare 3 vite, quindi bisogna un attimino capire, sono arrivato dove sono arrivato perché cara amica, soprattutto e collega cantante Crania Francesca che conoscete anche voi, mi ha ospitato lì, non conoscevo assolutamente il posto e ho iniziato da lì. Quindi, insomma, intanto appunto questa questione della difficoltà del dove trovare il luogo giusto, anche per potersi spostare, perché poi i paradossi della vita vogliono che da quando abbia deciso di fare questo cambiamento, sono stato chiamato Tour per fare il ovunque. turnista, sono arrivato su a Hong Kong, che non c'avevo niente da fare fino all'anno Dalla prima, Valcamonica a Hong dalla Kong. Valcamonica ad Hong Kong, Beh, sono portato stato bene. parecchio in giro con la Marta Delgrandi, quindi insomma anche ripreso diciamo a fare un lavoro che è quello standard, tra virgolette, senza nulla togliere, cioè quello per cui effettivamente uno studia e si fa il suo percorso, cioè suonare il violino, mettere in piedi l'elettronica, le sequenze, gestire il palco e così via, per cui anche lì scelta ecologica, sì, stare secondo natura, fare una vita più essenziale. Dover utilizzare la macchina 3-4 volte la settimana è un po' un controsenso. Si trova un'altra soluzione, sì, nel tempo, cercare Che di poi capire. scelta ecologica in montagna penso che sia tra virgolette molto complicata esserla, nel senso che la montagna o le difficoltà ti obbligano in alcun modo, cioè la città ti rende più facile essere ecologico, hai la possibilità di muoverti, A di dice a livello di muoverti a livello di spostamenti. spostamenti, ma anche a livello di gestione. Ho un caro amico che anche lui è vissuto in montagna per un sacco di tempo, si chiacchierava, diceva io devo buttare la spazzatura, devo prendere la macchina per buttare la spazzatura In montagna. in montagna, devo andare giù, quindi sono controproducente al discorso ecologico. È complicato, è complicato. Guarda, veramente si potrebbe stare per ore a parlare di Sì. questo tipo di. Io più che l'idea iniziale è stata quella di ritornare un po' all'essenziale, cioè del consumo. Io parlo più del consumo di risorse. Quando Personale penso alla tuo. montagna, risorse personali, cioè intanto cominciare a capire di quanto poco si ha necessità personale di Indubbio. consumare, e il carburante adesso è una di quelle maggiori, perché faccio un lavoro che mi obbliga a A dovermi muoverti. spostare necessariamente. Quindi sì, stare in città da un lato rende più semplice l'assenza di consumo dal punto di vista logistico. Però Sì, ti pare no, che le cosce di indubbiamente. pollo siano nate sugli alberi e quindi Ah non ti no, quello poni nessun sicuramente, che tipo ti di crei. problema, ci sarà sempre un problema da qualsiasi parte, Ass per cui diventa una questione di ricerca personale e poi di riuscire effettivamente collaborativamente con altre persone dialogando a trovare una quadra, perché tanto ci siamo predisposti un mondo che è consumo Ah, di ormai sì, siamo base, dentro a o fai consumare. veramente l'eremita a 2000 metri. E vivi di muschi e licheni, o trovare okay. il giusto o trovi il giusto equilibrio e fai comunità e cerchi di capire anche le altre persone che sono lì da più tempo come si muovono, veramente tutta una serie di fatiche, ma sono belle fatiche per sì, sì, si riscopre un mondo che qui comunque viene in maniera distopica nascosto, viene sì, più che altro si dà per scontato che sia naturale vivere in un contesto artificiale sì, è artificiale vero. Quello che ci siamo costruiti nel corso di 150 anni poi non dall'altro però ieri certo. quindi è poi... lì, insomma l'idea è stata ritorniamo un attimino minimo alla base perché poi non sono di certo alla base quanto poi uno effettivamente ha la capacità di vivere e se la sente alla base, cioè ci sono delle realtà vicino a me che veramente hanno, non lo so, l'azienda agricola che ha il suo quartier generale a 1500 metri con i pannelli solari e stanno lì e usano l'elettricità solo per caricarsi il telefono quando lo aprono, ok? Certo. Lavoro di musica, tutto molto affascinante per quanto riguarda l'azienda agricola, ma se devo ospitare qualcuno a fare una residenza nel progetto di cui parlavo prima o devo lavorare io del pannello solare non ne faccio niente perché devo alimentare la strumentazione, ci sono queste difficoltà logistiche, poi anche appunto sì la questione della solitudine di cui parlavi prima è un bello scoglio, tanto per cambiare argomento insomma per parlare un po' in generale di tutto quello che è la solitudine è da affrontare, anche quella è una difficoltà da affrontare. Ogni giornata è una novità, nel senso che alle volte credo faccia molto bene tornare ad essere capace a star con se stessi e quindi capire quando effettivamente si ha bisogno di compagnia, no? Screma molto i rapporti, dà molta più percezione di realtà quando tu stai coltivando effettivamente un rapporto umano con qualcuno, quanto invece stai sfruttando una società basata sulla distrazione, quindi dove sta la realtà della profondità di un rapporto con una persona. Credo che molto probabilmente imparare a stare con se stessi realmente faccia molto molto bene, faccia molto bene e ha la sua difficoltà nel momento in cui torni in società, scusami, nel momento in cui torni in società crea la sua difficoltà perché io faccio molta più fatica adesso, alle volte mi stanco molto prima, e quando vado in giro per concerti con Marta o mi ritrovo anche banalmente a dover affrontare la vita della città avrei molto più chiaro mi stanco, cioè proprio faccio molta fatica ed è una cosa bella, nel senso che comunque vuol dire che tu sei riuscito a raggiungere una visione più semplice di vita e hai un occhio, adesso non voglio fare l'olistico, un terzo occhio che si è aperto e riesce a vedere un attimino quelle che sono le finzioni della società moderna o contemporanea rispetto a quello che è invece un ritorno alla semplicità che cercavi e che ci hai detto e raccontato fino adesso, che è quello che ti aiuta poi probabilmente anche a fare pace con se stessi. Sì, fa porre delle domande, diciamo. Io non penso proprio di aver ho aperto tutta una serie di domande. Quanti demoni nuovi hai scoperto in questo periodo in montagna? Devo dire, mi sento piuttosto in linea con il programma, piuttosto tranquillo. È una tranquillità molto particolare, nel senso che ha al suo interno della nostalgia, ha al suo interno tanti dubbi, però ripeto, una volta che poi uno si va a fare una camminata di 2 ore e sta davanti ad una cima, sapere anche solamente che c'è un ghiacciaio di fianco, che c'è poi la Val Camonica è antichissima, nel senso anche a che fare con lo sviluppo e l'evoluzione dell'essere umano stesso, perché sono i primi insediamenti, lo senti, e quindi sì, anche lì ridimensiona tutto, tutte queste grandissime domande che ci si pone certe volte finiscono in un grande sorriso e un po' un bel vaffanculo, andiamo a farci una passeggiata e ciao, e insomma per restare olistici abbracciamo un albero, non faccio perché mi sentirei ridicolo, però pieno di resina, pieno di sì. Ma invece tutta questa appunto contatto con la solitudine, contatto con la natura, questo essere un po' isolato e che ti porta a essere più in contatto con te, invece riguardo e rispetto alla musica e al processo creativo che tu hai o al tuo rapporto col suono, senti che ha portato dei cambiamenti o come stai vivendo adesso il processo creativo e il tuo far musica, il tuo suonare in un luogo diverso da quello che eri prima? Anche questo è in grande divenire. C'è stata una grandissima esplosione, guarda, riguarda sempre la novità del luogo, quindi mi ritrovo proprio in una fase che è quella della lucidità, perché è il secondo anno ed è molto diverso dal primo, perché il primo mi ha dato una botta creativa allucinante, pensavo quasi di smettere di far cose, prima cosa che non avrei mai fatto ovviamente, però vengono questi pensieri. I primi 3 mesi penso di aver tirato giù, cioè durante l'estate del 2023, non dico quasi tutto il materiale che suonerò domani, ma diciamo l'idea è partita da lì. Durante tutto il 2024 c'è stato lo sviluppo e la decisione, neanche decisione, insomma la via di ricerca di utilizzare le registrazioni ambientali per portare tramite il suono l'immagine della montagna, la suggestione di quello che è stare in determinati luoghi, quindi senza dover necessariamente spostarsi fisicamente, ho detto cosa me ne faccio io di questa musica qua, cioè che senso ha adesso suonare, fare musica, produrre, perché avevo perso il senso di farlo, anche guardandomi un pochino attorno, dicendo devo pubblicare dei brani per far conoscere, ma per far conoscere chi, me stesso, un'idea di che cosa stiamo parlando esattamente, anche ormai nel 2025, quanto senso ha. Poi mi sono anche posto tante domande riguardo l'autoreferenzialità, che per me dovrebbe essere l'esatto contrario, perché se fai musica dovresti sparire come persona nel senso fisico del termine, per mettere nelle condizioni gli altri di ascoltare, perché si tratta di ascolto a livelli diversi di profondità e leggerezza a seconda di quello che uno fa. Ma un pochino il punto focale è quello di non concentrare l'attenzione su se stessi come individuo, quanto su quello che tu stai portando come idea. Quindi c'è un po' questa andare anche appunto a trattare il suono forse come agente principale d'ascolto, che poi anche con atmosferica è una cosa che ripetiamo molto spesso, perché sta alla base anche del nostro di processo creativo, quindi togliere un pochino l'artista dal piedistallo di essere artista e cercare di divenire poi un tutt'uno sia col suono e soprattutto anche poi con le persone che ascoltano questo suono. Sì, di farlo per le persone, esatto. Ma a prescindere da quante siano, da certo. Chi siano, da qual è il messaggio che loro interpretano, però tu ce lo devi avere ben chiaro. Quindi a parlarne adesso comunque è un continuo pensare ad alta voce. Questo è il processo nel quale mi ritrovo io al secondo anno, cioè il primo è stato di raccolta materiale, di ripresa dell'entusiasmo in qualche maniera, perché era tutto molto più fresco, avevo molto più tempo. Mi sono ritrovato adesso che tra i lavori, tra andare e tornare, avevo il tempo giusto, che torniamo al tempo, esatto. E adesso anche iniziando a proporre questa formula di live, che è fatto di brani non pubblicati per la maggior parte, un paio ce ne sono, mi piace suonarli e vai, suona di sti brani vecchi, non è nessun tanto, non è un problema, però la maggior parte sostanzialmente il materiale proposto durante il set sono dei pezzi, degli esperimenti sonori, delle registrazioni ambientali che man mano che le suono dal vivo ne capisco l'efficacia comunicativa verso l'esterno, cioè suggestionano abbastanza la struttura, la composizione è efficace, ci devo suonare il violino o no, lo capisco facendolo dal vivo e di ritorno rispetto a quello che poi comunica col pubblico. Quindi anche lì solitudine sì, però necessità di avere una comunicazione esterna anche per quello che è il mandare un messaggio in qualche modo, perché da solo a 1500 metri ti puoi fare tutte le lucubrazioni che vuoi, ma lì restano ed è veramente un peccato che restino lì perché sennò torna l'autoreferenzialità ed è Assolutamente. quello che secondo me non deve succedere, cioè l'invito in qualche modo a riflettere tramite questo set non è il isoliamoci tutti per i fatti nostri, ognuno sul suo cucuzzolo e ciaone come stiamo facendo in città che ognuno c'ha il suo giardino, ognuno pensa, deve essere tutto l'opposto, quello che cerco di fare con la ricerca mia personale è, io non è che ho capito qualcosa, però sento qualcosa. La cosa che sento molto forte è questo qualcosa non teniamocelo per noi, se sembra essere molto forte, quindi diamolo in pasto alla mente di tutte le altre persone che magari nel loro background mentale ce l'hanno aspettando il weekend per andare di qua di là, non è un invito a prendere, fare armi bagagli e andare tutti quanti a vivere in montagna, ognuno ha la sua vita. Sono anche molto fortunato con il lavoro che faccio a potermi permettere di stare dove sto, lo so benissimo, non, per quello non è un insegnamento, no? Però l'attaccamento all'incontaminato sicuramente è una cosa che fa molto bene e ciò che farebbe molto male, che lo deteriorerebbe, sarebbe tenerselo per sé. Quindi E questo mi sembra questo molto molto molto giusto, è. Sì. creare proprio appunto dei momenti di condivisione attraverso il suono. Sì, questa è l'utilità che credo abbia il suono per me adesso. Ma forse anche poi alla fine, se ci pensiamo, il lavoro del musicista, nel senso, a mio parere, Infatti ci troviamo molto bene, esatto. non so, ognuno poi ha il suo percorso e Ad vede accesso, più o meno chiaro. a livello di, sai, di mercato, di, ci sono mille maniere, mille strategie, mille strade, per carità. Il suono è un mezzo di comunicazione. Si parlava con il suono, i primi versi che si facevano erano non parole, ma versi sonori. Quindi ognuno trova il proprio modo di comunicare. C'è chi riesce a parlare, cosa che io non sono capace di fare, per esempio, e c'è chi riesce a parlare con la musica. Vito è uno di quelli, infatti. Infatti vi consiglio a tutti di venire, o tutti, quelli che potete, o quelli che ci staranno all'interno di Exalge domani sera, di venire a sentire Vito, perché a Merita. noi è già capitato di sentirlo negli anni passati e io sono super curioso perché non ho ancora avuto la fortuna di sentire il set nuovo. Non vedo l'ora, perché Di sono venire a super sentire la curioso, montagna. a venire a Io porto sentire il la suono della mo, montagna. vengo a suonare un po' di montagna. Bello, bello, non vedo l'ora, non vedo l'ora. E tra l'altro adesso poi la puntata continuerà con una playlist, una selezione musicale creata e fatta tutta da Vito, che riprende quello che ci ha Con le parole di raccontato adesso. durante Anticipa un po', questa esatto. chiacchiera Anticipa un po' il anticipa al live, materiale di immagino. domani, sì, un po' di registrazioni del luogo, qualche esperimento inedito, senza spoilerare No, troppo il live di domani, però assolutamente. qualche assaggino. Lo mettiamo. Super, grazie, grazie di cuore Vito, noi Grazie non vediamo l'ora, siamo a voi. Non super vediamo l'ora super che sia domani, sì. emozionati. Forse stanotte non A letto dormirò. presto, no, infatti, a letto presto o after, fino a domani. E grazie a tutti per l'ascolto, buon ascolto e ci A domani. vediamo presto. Ciao. Ciao a tutti. Ciao a tutti. song.